per antico recinto, ove un asilo del Signore alle figlie Rosalia consacrò. Queste del cielo ancelle, in puro fuoco, nutrendo in seno arter profani incensi, e per giure alla fede, fede al piacer, per di virtù. Io che ho portato con voi.